Dunque, io mi occupo di formazione, sono una docente, mi occupo di formazione aziendale, quindi vado nelle aziende e insegno ai lavoratori come lavorare in sicurezza. In questo momento ti trovi ferma, insomma, col lavoro. Purtroppo la formazione è stata bloccata subito insieme alla scuola, quindi anche se le industrie hanno continuato a lavorare per qualche settimana, non si poteva più fare formazione e io ho perso tutti i miei clienti in quel periodo, sono state rinviate parecchie lezioni. Quindi tu rientri, diciamo, tra le categorie che possono fare domanda per questo bonus, come ti sei mossa, appunto, fino a questo momento? Dunque, io mi ero ripromessa di alzarmi prestissimo perché girava la voce che il bonus si poteva richiedere a tempo, che sarebbe stato aperto solo per un certo numero di ore e chi prima arriva meglio sta. Poi in realtà questa era una notizia falsa, grazie al cielo, e quindi verso le 9 comunque ho provato a rientrare in modo più serio e capire cosa dovevo fare. Avevi già il PIN dell'INPS? Io sì, io lavoro con la partita IVA, quindi comunque utilizzo regolarmente il mio sito INPS per varie questioni. Quindi avevo il PIN, avevo tutto. Quella parte non mi preoccupava, sono entrata, però fin insomma, dal mattino presto e anche dopo le 9, quando speravo che le cose si sistemassero, entravo e non riuscivo ad accedere ai miei dati personali, ma continuavo ad accedere ai dati, o quantomeno nella schermata appariva il nome di un tale Luciano Vangone per tutta la mattina. In realtà non accedo ad altri dati personali, si vede solo il nome e poi quando ho provato per curiosità a richiedere la prestazione seguendo quest'account, il sito si blocca e appaiono altri nomi diversi. Speravo che fosse un problema temporaneo, invece è da un po' di ore che è così. Quindi tu non sei riuscita comunque a completare la domanda? No, io non sono riuscita e devo dire che non sono stata tutta la mattina a provarci. Ho provato a intervalli più o meno regolari, però no, ancora al momento non ho inviato nulla, nessuna richiesta. Quindi ancora non sai nel concreto poi che cosa ti chiedono, cosa bisogna compilare per la domanda, insomma. Sì, infatti, faccio presente che c'è un altro problema, che è il fatto che parecchi miei colleghi stanno lavorando con partita IVA, ma hanno anche un contratto come dipendente presso centri di formazione e non hanno chiaro, se possono richiedere, il bonus, perché dal decreto pare che chi ha accesso alla cassa obbligatoria, cioè chi è dipendente, viene escluso, ma in realtà spesso sono contratti irrisori che non coprono e non soddisfano quello che il governo si ripromette di fare, cioè di garantire un reddito di sussistenza dignitoso per tutti quei lavoratori che adesso non possono lavorare. Quindi chi è in Certo. questa situazione spuria ha un problema particolare. Dopo aver sentito la testimonianza di Michela che segnalava anche problemi per quanto riguarda la privacy, siamo al telefono con Chiara che sta provando anche lei a fare la domanda sul sito dell'INPS. Sono riuscita questa notte, perché ero sveglia a orari improbabili, ad arrivare ad un punto, insomma, dopo le prime due schermate, a un certo punto faceva vedere una schermata con solo una scritta, come se a sinistra non fosse caricarsi tutta, e lì non c'era niente di interattivo e non c'era altro da fare che chiudere il browser. Quindi non sei riuscita a compilare qualche parte? Sono riuscita a mettere dentro i miei dati, ma tipo la mail e il numero di telefono, ecco, fin qui. Quindi non sei arrivata fino alla fine della procedura, insomma. Assolutamente no, proprio mi sono fermata dopo appunto un paio di schermate. Ecco, quindi ti sei costretta, riproverai più avanti? Riproverò più avanti perché tanto ho sentito che il click day non esiste più, spero di aver sentito bene e spererò.